Presidente, mi ha detto che stanno bene e che le hanno restituito il telefono, nient'altro. Pochi minuti. Io sono un pochino più tranquilla perché l'ho sentita. Quando l'ha sentito, se lo aspettava di sentirlo, che cosa vi siete detti? No, non me l'aspettavo perché non sapevo quando. Speravo che mi chiamasse più presto. Mi ha chiamato stamattina e quindi mi ha detto che sta tutto bene, che lui sta bene, anche l'equipaggio, e che le avevano appena restituito il telefono e potevano comunicare con la famiglia. Signora, avete parlato della possibilità di un ritorno a casa imminente nelle prossime ore? No, in questo senso no, non mi ha detto niente perché non so neanche lui. Non so niente da rispondere perché non so altro. Cioè, l'unica cosa che mi ha rassicurato di sentirlo è che sta bene, questo è l'importante. Non gli hanno fatto male, diciamo, nel corso di questi giorni. No, niente, non ha detto niente. E poi non penso, non credo, che dalla voce lo sentivo abbastanza bene.